Letture di Radio 24. Le recenti polemiche sull'istituzionalizzazione della festa del 17 marzo per celebrare l'Unità d'Italia impongono alcune riflessioni che vanno oltre le scaramucce della mera lotta politica. Vagamente surreali nella loro dimensione istituzionale, le polemiche attorno al carattere festivo o lavorativo del prossimo 17 marzo diventano altrimenti significative nel momento in cui investono, oltre alla sfera dell'economia, la sfera della pedagogia, il problema del rapporto fra scuola italiana e identità nazionale. Qui non si tratta di piegare le polemiche sul festa sì o festa no, o festa lavorando al piccolo cabotaggio della lotta politica. Dietro il dibattito sulle celebrazioni dell'unità si nasconde una faccenda più grave, che riguarda le modalità stesse con cui un discorso pubblico sulla storia d'Italia viene trasmesso alle nuove generazioni. Inutile nasconderselo. Dall'Alto Adige alla Sicilia, le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità stanno suscitando reazioni che alludono a un malessere profondo. Siano leghisti che si ribellano contro un secolo e mezzo di Roma ladrona, siano meridionalisti che denunciano la piemontesizzazione forzata delle loro contrade, siano qualunquisti di ogni latitudine peninsulare, sta di fatto che molti italiani vedono avvicinarsi il 17 marzo con un senso di estraneità o addirittura di fastidio. Possibile che la scuola italiana, di ieri e di oggi, non si senta chiamata in causa dall'evidenza di tale disagio? Ben inteso, le responsabilità della scuola non spiegherebbero tutto. Lo spettacolo attualmente offerto dalla classe dirigente e da colui che si era autodefinito tempo fa il più grande presidente del Consiglio dal 1861 in avanti contribuisce assai poco a riscaldare negli animi la passione dell'essere italiani. Eppure, resta da chiedersi se la scuola abbia fatto e faccia tutto il necessario per trasmettere agli scolari, in numero crescente, figli di non italiani, una certa idea dell'Italia e di alcuni suoi meriti davanti alla storia. In particolare, c'è da chiedersi se l'Italia del 2011 non paghi il prezzo di un insegnamento della storia troppo a lungo incentrato su un canone, il canone definito dai sacrosanti programmi ministeriali, ma ancora più il canone di una storia declinata, per così dire, con la S trionfalmente maiuscola, anziché con una S minuscola che la faccia sentire più genuina, più vera, più vicina alla vita. Lo sanno bene i migliori insegnanti delle nostre scuole secondarie. Non appena un discorso sul passato della nazione abbandona il tono solenne della storia canonica per inseguire l'effetto di realtà delle situazioni locali, dei percorsi individuali, delle storie di vita, subito l'attenzione dei ragazzi si accende e la famigerata ora di storia produce, anziché disinteresse o noia, o rigetto, sentimenti di partecipazione, di appartenenza, addirittura di identificazione. Quando l'insegnante dice Giolitti o De Gasperi o anche Garibaldi o Matteotti, quel nome cade irreparabilmente nel vuoto. Ma quando l'insegnante dice a uno scolaro «Domandati chi era il garibaldino che dà il nome alla via in cui abiti» o invita la classe «Facciamo una ricerca sul partigiano caduto la cui lapide sta appesa al muro davanti alla scuola» o sollecita «Chiedete alle vostre nonne di raccontarvi cosa si ricordano della loro giovinezza». Allora i ragazzi vengono raggiunti, si interessano, studiano. Il sentimento della storia è cosa diversa, evidentemente, dal senso della storia ed entrambi sono necessari a costruire il rapporto di un individuo con il passato della sua collettività. Ma il sentimento della storia, in quanto si nutre di appartenenza, ha bisogno di ancoraggi sul territorio più di quanto ne richieda il senso della storia, che si nutre di intelligenza. E più che mai ha bisogno di ancoraggi territoriali il sentimento della storia d'Italia, la quale, insegnava già Carlo Cattaneo, è essenzialmente una storia di città. È storia di piazze, di torri, di palazzi, di campanili. La scuola italiana può contribuire a rafforzare l'identità nazionale anche attraverso un rinnovato impegno degli insegnanti sulla storia locale. Purché tale impegno non assuma le forme striminzite del localismo o del provincialismo o del regionalismo, magari sbandierando una leggina sul coinvolgimento dei consigli di classe e quindi dei genitori elettori nella definizione dei programmi scolastici. Non di questo si avverte la necessità, ma piuttosto, per riprendere una parola alla moda, di narrazioni che riescano davvero coinvolgenti, perché ciascuno dei nostri ragazzi si convinca che la storia d'Italia non soltanto parla a lui, ma parla di lui. De te fabula narratur. Avete ascoltato la lettura dell'articolo La storia dei nonni farà l'Italia di Sergio Luzzato da Il Sole 24 Ore di mercoledì 16 marzo. A inizio settimana, Luis Nazario da Lima, meglio conosciuto come Ronaldo, uno dei calciatori che rimarrà nella storia dello sport, ha dato il suo addio al calcio. Una sorpresa che restituisce alla storia uno sportivo rimasto incompiuto. Ci sono notizie che precedono di molto il proprio annuncio. L'addio di Ronaldo al calcio è una di queste. Per noi si era perso da almeno 4 anni. Non c'era bisogno della conferenza stampa nella sede del Corinthians per sapere che era diventato un ex. Lo ha detto tra le lacrime. C'è sempre stato qualcosa di tragico nel suo personaggio. Non ricordiamo un campione che abbia dovuto lottare con tanta follia contro il proprio fisico. Madre Natura lo ha dotato di qualità che, se non ne hanno fatto il centravanti più forte di tutti i tempi, come dice Moratti che per lui stravedeva, lo hanno reso un attaccante molto speciale. Quando ti scappava sullo scatto, non lo raggiungevi più. E non solo perché aveva una coordinazione straordinaria nel controllare la palla, ma perché era muscolarmente veloce. A Parigi, al Parco dei Principi, nella finale di Coppa UEFA contro la Lazio, partì da metà campo e arrivò davanti a Marchegiani, il portiere, ancora con la forza e la lucidità per metterlo a sedere con una serie infinita di finte. Il gol, come altri tra le centinaia che ha segnato, resterà per sempre nelle teche per la sua bellezza più che per l'importanza. Eppure il fisico è stato la sua maledizione. A 24 anni aveva già un ginocchio in briciole, con 2 interventi al tendine che lo bloccarono per 2 stagioni, e molti pensavano che non si sarebbe più ripreso. Un medico ci rivelò che Ronaldo aveva una malformazione al ginocchio mai indagata da bambino, per cui quel tendine restava come una corda di violino perennemente tesa e pronta a spezzarsi a ogni accelerazione. Un guaio quasi insanabile per un atleta che aveva nella potenza l'arma più terribile. Ci passò sopra, non si fermò, ma il fisico gli tese altri 100 agguati, alcuni misteriosi. Sempre a Parigi, per la finale di Coppa del Mondo che consacrò Zidane, sul foglio con le formazioni, a meno di un'ora dall'inizio, non appariva il suo nome. Comparve in un secondo tempo e si diffusero illazioni di ogni tipo attorno alle voci di un attacco epilettico. Tutto gli ha giocato contro. I muscoli di cristallo, le articolazioni d'argilla e il peso difficile da tenere a bada per colpa di una disfunzione alla tiroide, ma anche per le troppe birre e uno stile di vita che progressivamente cedeva ai piaceri negati nell'adolescenza a un ragazzo che a 18 anni era già un protagonista in Europa e a 20 una star. Negli ultimi anni lo chiamavamo sua grassezza, e non era una definizione esagerata. Ronaldo è stato grandissimo, ha vinto 2 mondiali e 2 palloni d'oro, per 3 volte l'hanno giudicato il miglior calciatore del mondo. Ha giocato nel Barcellona e nel Real Madrid dei Galacticos, nell'Inter e nel Milan, anche se quando lo prese Berlusconi era ormai un convalescente cronico, più in infermeria che in campo. A cavallo del nuovo millennio non c'era nessuno come lui, quando era sano. Eppure resta la sensazione di incompiutezza. Ronaldo avrebbe potuto offrire e ottenere di più. A noi italiani, in fondo, restano impresse soprattutto le sue sfortune. Il rigore che non gli fischiarono contro la Juve nel primo anno in cui poteva vincere il campionato, le urla per il ginocchio spezzato senza il minimo contrasto all'Olimpico di Roma, le lacrime con cui si congedò dall'Inter in quel 5 maggio in cui gettò alle ortiche il più incredibile degli scudetti. Grande e tragico, già disperso nella memoria. All'annuncio dell'addio al calcio, molti si saranno sorpresi che giocasse ancora. Avete ascoltato la lettura dell'articolo La resa del fenomeno di Marco Ansaldo, dalla Stampa di martedì 15 febbraio.